Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori. Ebbene, oggi faremo un viaggio molto particolare, direi un viaggio speciale. Ne abbiamo fatti nei territori, ne abbiamo fatti tra piccoli produttori artigianali, ne abbiamo fatti tra vignaioli. Bene, questo viaggio oggi sarà nei carceri italiani. Nei carceri italiani perché sempre di più esce fuori dai carceri una produzione agroalimentare davvero molto, molto interessante ed è anche, diciamo, un'esperienza sociale davvero, davvero unica. E allora voglio farvi raccontare direttamente dai protagonisti, diciamo, quale tipo di produzione e perché si produce nei carceri, si produce birra, si producono panettoni, formaggi, miele, vino, insomma un po' di tutto. Allora voglio cominciare questo viaggio da Padova. Padova un po' è diventato, come posso dire, il simbolo di questa produzione in carcere attraverso il panettone appunto del carcere di Padova. E abbiamo con noi il presidente della cooperativa Giotto, Nicola Boscoletto, che da anni, insomma, sta facendo una grande, come posso dire, una grande promozione a questo tipo di attività. Ricordo anche che tutti i radioascoltatori possono intervenire 800 24 0024, sms 349 238-6666. Buongiorno Nicola. Carissimo Davide, buongiorno, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Io voglio da te, prima di parlare, cioè il panettone ormai è diventato noto, il carcere di Padova, ma perché, cosa è questa produzione nei carceri, perché si sta ampliando sempre di più? Ma si sta ampliando sempre di più da una parte perché c'è una storia in Italia lunga di anni che si è interrotta a fine anni 70, inizi anni 80 e che dal 2000-2001, un po' a macchia di leopardo in tutta Italia, è ripresa. Quindi da una parte per una tradizione che le carceri italiane hanno sempre avuto, cioè di recuperare chi ha sbagliato non attraverso l'ozio ma attraverso un'attività, in particolare un'attività lavorativa. Dall'altra, oggi più che mai, è sotto l'evidenza di tutti, abbiamo un'emergenza carcere dove la vicenda del lavoro è sicuramente la meno presente ma la più necessaria. Ecco, vedo che è già arrivato un sms, immaginavo io che arrivavano sms di quelli, ma vengono pagati i carcerati, pagano le tasse. Ecco, volevo chiederti Nicola, sono tutti, diciamo, regolarizzati chi produce in carcere? Sì, assolutamente sì, poi sappiamo che dappertutto la perfezione non esiste, ma io le realtà che conosco e che operano e producono questi prodotti di qualità sono tutte realtà che fanno un percorso di inserimento lavorativo vero e proprio, che porta uno stipendio vero e proprio, che porta a pagare tasse, a pagarsi la carcerazione e ad essere da un problema per la collettività, per la società, a una risorsa. Bene, grazie a Nicola Boscoletto, perché allora ne sentiremo tanti altri, appunto, responsabili delle cooperative sociali. Andiamo a Rimini, andiamo alla cooperativa sociale La Fraternità, dove si producono formaggi, pasta sott'olio con un logo addirittura, la Madre Terra. Buongiorno Giorgio Pieri. Buongiorno a tutti. Sì, la Madre Terra è una delle prime loghi dove chi produce sono persone che vengono dal carcere, però parliamo di detenuti che espiano la pena all'esterno in un progetto educativo che si chiama Comunità Educante con i Carcerati, e a Rimini tra varie realtà abbiamo circa una sessantina di detenuti, di questi circa 30 lavorano nella terra. Abbiamo una realtà di circa 80 ettari di terra dove produciamo, poi da una stalla abbiamo un caseificio, come diceva lei, dove produciamo il cosiddetto formaggio del perdono. Ho capito. La madre terra. Scusi, cos'è il formaggio del perdono? Il formaggio del perdono è un formaggio il cui casaro è un ex detenuto. No, dicevo, ma che tipologia è di questo formaggio? È lo squacquerone? No, è una cacciotta, e poi abbiamo la ricotta. E poi ecco, sono formaggi un po' del posto che hanno però la caratteristica di essere lavorati molto manualmente. Noi crediamo proprio che passa l'energia, ecco, positiva delle persone che vi lavorano. In questo momento sono 5 persone impegnate appunto proprio nel caseificio. La stalla abbiamo un centinaio di capi di bestiame e anche qui abbiamo 4 persone impegnate, e poi abbiamo la terra. Ma volevo dire, la madre terra, sì, che è il simbolo, c'ha nella sua etichetta, la madre terra è un'altra cooperativa dove sempre ragazzi che vengono dalle nostre case, che espiano la pena, insieme a persone con problemi di disabilità, quindi circa 20 persone con handicap, insieme lavorano e producono prodotti biologici. E nelle etichette di questi prodotti c'è scritto: la terra, proprietà di Dio, ama i suoi figli e questo legame riporta l'agricoltura in armonia con le cose create. Ecco, cos'è che facciamo? Qual è la caratteristica della nostra realtà? Mettere al centro l'uomo, al centro di un'economia che vuole essere un'economia che sta nel mondo, perché di fatto questi prodotti vanno in tutta Italia, a logo alla madre terra. Bene. Però sono prodotti da persone che questa società scarna. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Eccoci qua a parlare di caffè. Comunque, numero verde 800 24 00 24, poi capirete perché abbiamo messo questa canzone. Ma prima voglio sentire un radioascoltatore, Paolo da Pavia. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Prego. Io ho chiamato prima ancora che cominciasse la trasmissione, quando ho saputo l'argomento, perché le racconto un episodio di cui sono venuto a conoscenza qualche anno fa. Avevo degli amici che lavoravano in un Luna Park e c'erano questi ragazzi che facevano l'impasto delle brioche così da vendere al pubblico, e mi raccontava che questi, semplicemente per sfregio nei confronti della gente, buttavano dentro corpi organici provenienti dal naso o da altrove di ogni sorta nell'impasto, divertendosi all'idea che poi queste fossero mangiate al pubblico. Episodi analoghi mi sono anche stati raccontati da catene di fast food, eccetera. Ora il punto è: ma io con che cuore mi mangio il panettone? Questo succede alla gente normale. Nel momento in cui il panettone è fatto da uno che bene o male è un carcerato, è un sociopatico, e che sì, sarà recuperato per quello che possono funzionare le politiche di recupero, ma io con che cuore mi vado a mangiare allora il panettone fatto da questo? Paolo, è evidente che ci sono le eccezioni che confermano le regole, ma io che lì c'è l'eccezione a farmi l'impasto, io non c'è quella regola. Sì, io le posso dire di essere stato 2 volte nel carcere di Padova dove produco il panettone. Ho conosciuto chi lo produce, ma devo dire che nella pasticceria del carcere di Padova, come in tante altre che andremo a vedere, ci sono anche degli esterni che insegnano il mestiere, insegnano a produrre, perché come si dice nessuno nasce imparato, e quindi di conseguenza molti di questi carcerati che producono formaggio o producono panettoni, sicuramente nella loro vita prima di essere in carcere non erano né pasticceri né casari, quindi è un modo anche per imparare il mestiere. Quindi di conseguenza io le posso dire di aver assistito per 2 volte alla produzione, a verificare le produzioni di questi carcerati. In un carcere solo sono stato, non sono stato in tutti ad assistere alla produzione, però è evidente che ci sarà anche qualcosa probabilmente che non funziona come lei dice, però non credo che si possa generalizzare. Ma visto che abbiamo parlato di caffè, ora andiamo a un carcere di Torino, andiamo da Luciano Cambellotti, appunto, che è vicepresidente della cooperativa Pausa Caffè, che produce tantissime cose. Allora voglio chiedere, visto la domanda del nostro radioascoltatore, se c'è controllo sulle produzioni. Buongiorno Cambellotti. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a lei. Se vuol rispondere a questa domanda, appunto, di questi dubbi di quello che si produce in carcere da parte di un nostro radioascoltatore che ha telefonato. Sì, ho sentito la domanda, effettivamente è una domanda che forse molti dei nostri delle persone che consumano i nostri prodotti forse o a volte se lo chiedono. E io le rispondo che proprio per superare queste paure, questo stigma anche che spesso le produzioni carcerarie hanno, no? Il bollo del prodotto di bassa qualità, perché si pensa al carcere come il luogo in cui vi è bassa qualità anche nel vivere, in realtà si fa esattamente l'opposto, cioè noi poniamo una grandissima attenzione alla qualità dei nostri prodotti, sia per quello che riguarda la filiera, cioè tutta la filiera, dall'approvvigionamento, e adesso poi passerò velocemente a raccontarvi del caffè, sia qualsiasi altro prodotto, ma noi come qualsiasi altra cooperativa. Quindi la questione della qualità è fondamentale, intanto per questo motivo, appunto, per superare l'idea del prodotto che, arrivando dal luogo che nel immaginario collettivo sa di poco qualitativo, in realtà si risponde con prodotti mediamente di qualità superiore alla media di quello che troviamo sugli scaffali dei supermercati. Eh beh, Cabellotti, rimanga con noi perché poi torneremo al caffè ad altro, ma abbiamo un radioascoltatore, Fabio D'Arieti, e sentiamo, perché credo che oggi le voci dei radioascoltatori siano molto importanti. Fabio D'Arieti, buongiorno. Sì, salve, buongiorno, buongiorno. Prego. Sì, ecco, io... Cioè, volevo fare una domanda, no? Perché lo Stato non incentiva proprio questa che c'ha, è stato detto anche all'inizio, no? Questo progetto proprio di mettere a reddito praticamente la struttura del carcere, nel senso proprio far produrre ai carcerati, e con il reddito si pagano le spese carcerarie, addirittura potrebbero anche, no, mandare dei soldi alle famiglie. Ma guardi che questo avviene, comunque lo chiedo a Giovanni Romano, andiamo al carcere di Siracusa. Buongiorno Giovanni Romano, cooperativa sociale L'Arcolaio, Dolci Evasioni. Buongiorno. Lei può rispondere a questo interrogativo sul reddito? Il reddito delle persone detenute che lavorano nelle cooperative sociali è un reddito da lavoro, come si è detto, equiparato ai contratti nazionali. Con questo reddito i detenuti mantengono le proprie famiglie, cioè anziché essere mantenuti dalle famiglie riescono a invertire il flusso di denaro, e questo è una cosa importantissima, anche perché molti di loro sono in situazione di indigenza. Bene, sì, quindi diciamo che l'aveva già annunciato Boscoletto, comunque mi sembra sia stato giusto ripeterlo. Numero verde 800 24 00 24 349 238 6666, il SMS. Torniamo a Cambellotti, il vostro marchio Pausa Caffè, diciamo, è molto variegato, perché voi comprendete Torino, Saluzzo e Alessandria, quindi in ogni di queste carcere c'è una specialità. Mi interessa sapere, caffè e cacao, c'è anche la torrefazione? Sì, esattamente, è quello che facciamo. Noi lavoriamo direttamente con i produttori di caffè in Guatemala, sono dei progetti che sviluppiamo insieme a Slow Food, quindi sono dei presidi internazionali di Slow Food. È un caffè coltivato da comunità che tra l'altro sosteniamo direttamente, proprio anche per il prezzo che concordiamo tutti gli anni sull'acquisto del caffè. Lo portiamo direttamente in Italia, quindi senza intermediazioni ulteriori, quindi c'è un'attenta, rispetto alla questione della qualità, c'è un'attenta verifica della qualità anche nel trasporto, nel viaggio di questo caffè. Quindi noi abbiamo un caffè che è per forza di cose ad altissima qualità, perché non passa in altre mani, e viene tostato a legna all'interno del carcere di Torino. Chiudo solo velocemente ancora sulla questione della qualità. Attenzione, noi vendiamo a Italy, vendiamo alla rete delle coop, abbiamo un controllo continuo da parte dei nostri stessi clienti, oltre che delle ASL, oltre che le certificazioni di qualità del biologico, quindi voglio dire, sono prodotti veramente molto sicuri. E attenzione, lavorare sulla qualità per noi è proprio quello che ci permette alle persone con cui lavoriamo di fare il salto di qualità nella loro vita, è proprio nel lavorare con parametri di altissima qualità che riusciamo a far fare quel percorso di cambiamento alle persone che spesso arrivano da situazioni di vita, come dire, a bassa qualità, in situazioni di vita invece di scelte consapevoli, di essere all'interno di reti, di filiere di qualità che danno origine a prodotti buoni fruibili dalle famiglie. Grazie. Grazie a Cambellotti, Pausa Caffè. Maria Luisa da Roma, buongiorno, una radioascoltatrice, prego. Buongiorno, non sono Maria Luisa ma Maria Laura. Vabbè. Io volevo intervenire a proposito dell'intervento che ha fatto quel radioascoltatore in precedenza, e perché in qualche modo rappresenta un'opinione comune della gente che nei confronti del carcerato ha paura e lo considera un elemento pericoloso o sociopatico, come l'ha definito. E vorrei dire intanto che chi partecipa a questi progetti non sono tutti i detenuti, perché i detenuti scelgono liberamente di partecipare a progetti del genere e sono persone che hanno deciso di seguire un percorso di recupero. In secondo luogo, proprio essendo delle persone particolari, direi che il rischio che questo signore ha prospettato è un rischio che trova tutti i giorni nella vita, ogni volta che mette in bocca un alimento. Sì, senta Maria Laura, sono arrivati tantissimi SMS che definiscono discorsi, qui mi dice da cretini, io leggo quello che mi viene mandato come certo. SS, perché anche un dipendente di una qualsiasi società alimentare potrebbe per sfregio alterare il prodotto, quindi credo che sia un intervento che si commenta da solo. La ringrazio perché lei ha dato alcune precisazioni importanti che sono anche esterni che intervengono. E allora io vado da Luciano Pantarotto, presidente della cooperativa sociale Man at Work, marchio 70 sbarrato. Tra l'altro i marchi sono abbastanza allusivi e anche allo stesso tempo ironici, del carcere di Rebibbia di Roma. Buongiorno Pantarotto. Buongiorno. Voi 70... prego. Sì, no, il 70 smarrato è il numero civico di Rebibbia Nuovo Completo. Sì, immaginavo che era. Senta, quindi siamo un carcere femminile? No, siamo al maschile. Al maschile. Un circondariale che in questo momento ospita 1800 persone. Ecco, rispetto ai 1300 che sono le cifre che dovrebbero essere quelle ufficiali, insomma, ecco, delle stanze. La cosa curiosa è che voi fate catering utilizzando i prodotti ortofrutticoli appunto della vostra azienda agricola, è così? Sì, esattamente così. Da luglio abbiamo attivato un campo che è vicino al carcere di Rebibbia, al penale, stanno lavorando 4 persone detenute in ciclo biologico, siamo in attesa della certificazione perché ci vorranno almeno 3 anni, però utilizziamo i nostri catering questi prodotti, quindi un ciclo chiuso di produzione. E sentivo gli interventi precedenti e il primo tema era proprio quello della qualità, cioè il fatto che le persone da questo punto di vista fossero assicurate della qualità e della bontà dei prodotti che sono equivalenti ai prodotti che vengono fatti all'esterno, tant'è che noi all'interno del nostro servizio di catering abbiamo i processi ISO 9000, quindi da questo punto di vista è una precauzione che noi abbiamo voluto seguire da questo punto di vista. Sì, devo dire che arrivano tutti SMS molto volgari che non sto a leggere proprio per decenza, comunque è evidente che ci sono tantissimi luoghi comuni e che potrebbero essere smentiti magari facendo visitare appunto queste situazioni e magari facendo anche assaggiare. Ma voglio tornare a Giovanni Romano appunto, abbiamo detto Siracusa, voi producete pasta alle mandorle, vero? Fate pasticceria soprattutto? Sì, facciamo soprattutto pasticceria, facciamo vari tipi di dolcetti alle mandorle e poi vari tipi di mandorle tostate salate. E come distribuite? Abbiamo vari canali di distribuzione, distribuiamo alle botteghe del commercio equosolidale, ai negozi di biologico, ai gruppi di acquisto solidale, ai cosiddetti GAS, ci muoviamo per lo più su canali di economia solidale. Bene. Non riusciamo ad arrivare in tutta Italia. Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53 e al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia, per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla. Eccoci di nuovo introdotti dentro al carcere. Bene, sentiamo Alberto da Monza Brianza. Buongiorno Alberto. Buongiorno a lei dottor Paolini. Niente, la mia domanda era mirata al fatto che oggi pomeriggio e domani mi reco alla Osta, la fiera Osta Milano Ropero, che è proprio del settore dell'alimentazione e altro. Volevo solo chiedere se era riconoscibile qualche cooperativa carceraria giusto per acquistare prodotti, per assaggiarli e per poterli confrontare. Guardi, io questo non posso farlo perché non ho un elenco qui, però se ascolta ci sono moltissime che stanno intervenendo, sono cooperative proprio ad hoc su questo. Devo dire che veramente divide questo argomento, c'è un po' di tutto, lei chiede di poterli comprare, altri addirittura chiedono garanzie contro l'AIDS dei prodotti, altri ancora sparano, dicono che è un argomento che non si dovrebbe fare. Bene, insomma, sono molto contento quando c'è questa discussione e questa divisione sugli argomenti, sennò sarebbe troppo noioso fare appunto radio. Ma continuiamo questo viaggio. Ora andiamo a Trani alla cooperativa sociale Campo dei Miracoli. Buongiorno a Salvatore Loglisci. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Senta, Loglisci, io gli voglio fare una domanda che qui viene veramente, emerge veramente, quella della garanzia sulla produzione. Volevo chiedere del suo del carcere di cui si occupa della produzione di taralli e altri prodotti da forno. C'è controllo sulla qualità? Certo, allora vorrei precisare che comunque il personale che noi assumiamo viene sottoposto a dei controlli sanitari, quindi se non hanno una certificazione sanitaria idonea non possono neppure entrare in cucina. Dopodiché anche i nostri prodotti vengono sottoposti a una serie di analisi. Noi abbiamo un biologo esterno che prende dei campioni dei nostri prodotti e li sottopone ad analisi. Qualsiasi parametro possa subire delle modifiche viene segnalato, e comunque noi lavoriamo con la grande distribuzione e con le botteghe ecosolidali, e anche la grande distribuzione, qualora trovasse delle disparità nei parametri, ce le sottolineerebbe immediatamente. Quindi da questo punto di vista penso che siamo più che controllati rispetto ad altri produttori esterni. Bene, Raffaello da Roma, un radioascoltatore. Buongiorno Raffaello. Buongiorno caro. Prego. Allora, volevo dire che c'è in tavolo il grosso problema dell'amnistia per noti motivi citati dal Presidente della Repubblica. Proporrei, come del resto oramai avranno in mente i nostri amati parlamentari, i reati minori e per colui che in attesa di valutazioni, neanche imputato, di metterli in campi di attività demaniali, in isole o regioni dove ci sono cose demaniali o caserme abbandonate, e ivi iniziare il recupero come previsto dal codice penale per rientrare in società. Questi per i reati minori, ovviamente. Toglierebbe le carceri, riaprendo delle carceri che potremmo dire agricole, morbide, ben tenuti, rispettati come uomini, in modo tale che eliminiamo dalle Bibbia, eccetera, tutte queste ipercarceri, tutte queste persone che costano l'ira di Dio. E francamente bene che siano fuori. Grazie a Raffaello da Roma. Ora voglio tornare a Torino da Piero Parente della cooperativa sociale Ecosol, Libera Mensa si chiama, e della cosa interessante voglio sapere da Parente perché diciamo che questa cooperativa aprirà un ristorante all'interno del carcere. Cosa significa, Parente? Dunque, noi nel 2005 abbiamo iniziato a lavorare, innanzitutto buongiorno a tutti, nel 2005 dicevo abbiamo iniziato a lavorare all'interno del carcere di Torino occupandoci della gestione della cucina, e da lì siamo partiti poi con l'apertura sull'esterno facendo attività di catering. Siamo partiti con servizi piccoli, arrivando poi a gestire attività per privati come matrimoni, ma anche grandi eventi come l'ultimo catering per il convegno di sociologia che ha ospitato da tutta Europa circa 2600 persone, quindi stiamo parlando di un'attività di impresa di un certo tipo, e tutto con la sola cucina all'interno del carcere, con professionisti che arrivano dall'esterno, i quattro cuochi soci della cooperativa e i 32 detenuti che vi lavorano all'interno. Questo del ristorante è un po' una sfida, è un progetto che Ma mi scusi, chi potrà mangiare in questo ristorante del carcere? Le persone che prenoteranno e saranno autorizzate all'ingresso nella zona, diciamo, sotto la direzione, quindi all'interno del carcere, non nella parte detentiva, perché non si tratta di, come dire, un progetto voyeuristico, nessuna pruderie, ma di completamento di una filiera formativa e lavorativa, per cui le persone potranno anche imparare direttamente il mestiere all'interno della sala. E con l'associazione Moeche, Creatura in Muta si chiama così, ad esempio domenica prossima organizzeremo le cene dal carcere, per cui uno dei nostri cuochi professionisti con due aiuti detenuti che si sono formati con lui, abbiamo la prima di queste esperienze, per cui in un ristorante di Torino chiuso domenica porteremo la nostra cena attraverso questa associazione, c'è la possibilità Bene. Di prenotare. Grazie Parente di questo esperimento. Sentiamo Laura da Roma, una radioascoltatrice. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sento, ho già sentito prima un altro interlocutore che parlava un pochino del discorso che voglio dire io. Io volevo sapere se esistono, se hanno pensato di fare, eccetera, delle cooperative che siano appunto di persone, di carcerati, che potrebbero lavorare come operai, pittori, muratori, carpentieri, falegnami, eccetera, per poter risistemare tutte quelle carceri dismesse oppure quegli immobili abbandonati, perché anzi con il loro aiuto potrebbero anche lo Stato, eccetera, poter fare delle carceri che siano adatte a persone che vivono e che possono vivono in questo carcere, che possono poi chiedere certi accorgimenti e nello stesso tempo lavorano, avranno uno stipendio, bene, potranno bene. In questo senso io trovo riassorimento. Grazie Laura di Roma di questo nuovo, così diciamo, nuova proposta. Io ora vado nel carcere di Mulazzo in provincia di Massa Carrara da Mauro Cavicchioli. Buongiorno Cavicchioli. Buongiorno a tutti. Voi... Ma non è un carcere il nostro, non è un carcere, è una comunità di esterni, quindi. Sì, è una comunità esterna per l'accompagnamento di persone che vengono dal carcere. Ho capito. Certo. Voi producete miele, mi sembra di capire, no? Il nostro è un progetto alternativo verso il superamento del carcere, perché crediamo che questo modello non funziona e quindi dobbiamo eliminarlo, dobbiamo sostituirlo con un modello che funziona e che cioè accompagnando queste persone possiamo restituirle alla società, come dice l'articolo 27 della nostra Costituzione, diverse e che quindi non fanno più del male ma fanno del bene. E quindi abbiamo sviluppato un percorso di terapeutico, educativo e di accompagnamento dove appunto abbiamo le api, abbiamo il laboratorio del miele dove produciamo miele e poi lo produciamo noi, lo lavoriamo e lo commercializziamo nella grande distribuzione. Ecco, quindi... ho molti SMS che chiedono se la grande distribuzione dispone di questi prodotti. Abbiamo sentito da molti di queste cooperative sociali che in effetti molti di questi prodotti vanno appunto alla GDO e molti mi chiedono perché non viene comunicato. Bene, questo sarà un problema ovviamente della GDO. Poi voglio rispondere anche a un altro SMS che dice che io ho liberato come stupidaggine molti SMS. Sì, non sono quelli che ho letto, caro radioascoltatore, ma sono semplicemente altri che erano pieni di volgarità che ho preferito evitare. Bene, Antonio da Torino, radioascoltatore, buongiorno Antonio. Sì, buongiorno Paolini. Senta, io volevo intervenire in questo vostro discorso del reinserimento dei detenuti che praticamente svolgono attività lavorative. Però diciamo che oltre al percorso dell'agroalimentare ci sono anche altri percorsi. Beh, oggi parliamo di questo perché la mia trasmissione riguarda l'agroalimentare. Ho assaggiato un sacco di prodotti buoni. La domanda precisa era questa. Ci sono anche altre persone che praticamente fanno un percorso anche tipo universitario eccetera che poi vanno a lavorare altrove. Certo. E però praticamente, come dice la legge, che hanno i requisiti tutti a posto e poi magari si vengono rifiutate queste pene alternative, insomma, ecco. Eccoci di nuovo, numero verde 800 24 00 24. Bene, come dicevo prima, veramente tra gli SMS abbiamo i pro, abbiamo i contro, abbiamo qualcuno che parla anche di esperienze all'estero in Spagna e Francia con enormi soddisfazioni. In Italia siamo troppo arretrati normativamente e culturalmente, scrive un radioascoltatore. Serve un cambio radicale che affronti anche produzioni industriali e non solo artigianali. Bene, continuiamo questo viaggio e ora andiamo a Verbagna, alla cooperativa sociale Divieto di Sosta, con un marchio veramente divertente, Banda Biscotti. E ne parliamo con Anna Rita Violati, che è la responsabile della produzione. Allora, proprio lei, voglio chiedere quali sono le garanzie di produzione, appunto, diciamo, dei prodotti che arrivano dal carcere. Buongiorno Anna Rita. Buongiorno a tutti. Prego. Le garanzie. Ma, come diceva già un collega, la produzione in carcere per certi versi è più controllata di altre, perché abbiamo, oltre al sistema HACCP che hanno tutte le aziende alimentari italiane, abbiamo anche un controllo dovuto proprio a quello che portiamo dentro e fuori dai laboratori che si trovano all'interno del carcere. Ecco. Quindi sicuramente questo è una garanzia del prodotto. Poi qualcuno forse l'ha anche detto negli interventi precedenti, qualche ascoltatore, riuscire a penetrare il mercato con un prodotto fatto in carcere significa fare un prodotto che ha un quid in più rispetto agli altri, perché altrimenti la gente non lo compra. Ho capito, sì, sicuramente. Beh, questo diciamo che lo dovevo, perché appunto molte degli sms che arrivano pongono l'interrogativo su questo. Sentiamo Franca, una radioascoltatrice. Buongiorno Franca. Buongiorno. Prego. Io volevo solo dire questo, che l'iniziativa è ammirevole e lodevole da tutti i punti di vista, ma non dimentichiamo che la messa al lavoro è molto prezioso fuori dal carcere. Non è un modo per portargli il lavoro a chi è fuori. E perché fare i panettoni, produrre i prodotti agricoli e così via, cioè toglie lavoro agli altri, ecco, ma bene. In modo molto benevolo, lo dico. Bene, ecco. Sì, allora lo chiediamo a Silvia Polleri, credo. Polleri, cooperativa sociale ABC, il carcere di Bollate di Milano, dove fanno catering. Allora chiedo a lei, portate via lavoro al catering a Milano? Guardi, credo che vada sciolto innanzitutto proprio questo equivoco, è quasi considerare il carcere come una realtà fuori dal mondo. Il carcere è parte della nostra società, eh? È il vicino di casa, può essere purtroppo l'amico, il parente. Non è una nuova società, è una società che temporaneamente viene fermata perché ha sbagliato, ma è parte della nostra società. Noi come catering ci siamo chiamati per scelta ABC La Sapienza in Tavola. I detenuti che hanno fondato con me 10 anni fa la cooperativa non hanno voluto trovare un nome ironico, perché la sfida nostra è stata proprio questa, inserirci nel mercato di settore. Questi signori che lavorano con me non portano via lavoro ad altri, perché loro sono gli altri, loro sono la società temporaneamente fermata. Quindi l'orgoglio nostro è stato proprio quello di reggere la sfida. In 10 anni abbiamo fatto più di 500 eventi di banqueting di alto profilo. Questa è la vera sfida, collocarci in una fetta di mercato medio-alta. E quando si chiede ma ci sono i controlli, noi ci siamo inseriti nel mercato di settore, quindi i controlli sono al pari di tutti quelli degli altri banqueting e catering di tutta Italia. Poi la sfida è veramente bella, perché in questo percorso tu vedi le persone che si riappropriano, grazie anche al lavoro che tu fai proprio, che proponi loro, si riappropriano della propria dignità, perché questo è il tema. Il carcerato non è un extraterrestre, il carcerato posso essere io e chiunque altro. Bene, rimanga con noi Gilda da Lucca, una radioascoltatrice. Buongiorno Gilda. Buongiorno, io volevo, in merito a questa cosa, l'Europa, di recente questa notizia, che ci sanzionerà per il discorso dei carceri, però volevo dire, i politici e l'Europa mi fa dire se danno delle sovvenzioni, dei soldi, perché questa gente abbia capacità di recupero. Bene, chiediamo a Narita Violani di rispondere a questa domanda. Ma è una domanda sicuramente complessa e che andrebbe affrontata magari in più tempo. Quello che posso dire rispetto al lavoro in carcere è che le persone che hanno un'occupazione durante la detenzione hanno una recidiva inferiore all'80% rispetto a chi una possibilità di lavoro in carcere non l'ha avuta. E questa è una ragione per cui il lavoro in carcere deve essere assolutamente garantito e incentivato. Rispetto alle scelte politiche, che dire, credo che le difficoltà del paese siano sotto gli occhi di tutti e questa sia soltanto una del lungo elenco, insomma. Sicuramente pensare di rendere migliori delle persone mettendoli nelle condizioni in cui sono oggi le carceri italiane è un'utopia, ecco. Andrea dalla provincia di Monza, Brianza, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego, buongiorno. Prego. Niente, volevo dire in quanto riguarda la sanità, volevo dire una cosa. Anche fuori non ci sono tanti controlli, perché una volta avevamo il libretto sanitario dove si facevano degli esami proprio medici per quanto riguarda la sanità. Oggi c'è un HCCP, ma di esami medici non se ne fanno più da nessuna parte. Quindi cosa vuole dire? Non ho capito bene. Voglio dire che per cui come non ci sono dei controlli su medici nelle carceri, non ci sono nemmeno fuori, perché non si fanno più. Una volta si faceva l'esame del sangue, si facevano determinati esami e si rilasciava un libretto sanitario. Oggi non si fanno più. Ebbene, sentiamo Silvia allora dell'ABC La Sapienza, magari che dia una... Scusi, sì, volevo proprio rispondere, sì, a questo ascoltatore. Non è vero, noi mettiamo, e questo lo deve fare ogni azienda, applichiamo la legge 8.1 che è sicurezza sul lavoro. Io faccio fare da un medico esterno al carcere, che abbiamo assunto noi, faccio fare i controlli e vaccinazioni, esami del sangue, tutto ciò che necessita. Io metto in atto la legge 8.1 che prevede il medico del lavoro, ma non perché sono in carcere, perché sono un'azienda. Bene, grazie a Silvia Polleri, e devo leggere Domenico da Milano, non faccio in tempo a farlo intervenire, che dice: ho toccato con mano l'esperienza appunto dell'ABC La Sapienza, del carcere di Bollate, è un'esperienza favolosa. Quindi è l'ultimo radioascoltatore, basta, non ne posso far più intervenire altri, anche se tantissimi vorrebbero intervenire, ho tantissime sms, non riesco a leggerle tutte. Allora vi do un suggerimento: nei giorni 18, 19 e 20 ottobre a Crema si terrà la prima edizione del festival I Mondi di Carta, che è una rassegna culturale gastronomica dove arte e cibo si intrecciano per dar vita a incontri e appuntamenti dedicati al buon vivere. Io ringrazio in redazione Anita Panizza, in assistenza Isotta Scenna e Peter Bescapè alla regia. Un caro saluto e un buon weekend a tutti da Davide Paolini.